Sei pronta? Sì. Allora, i musicanti di Brema. C'era una volta un povero ciabattino che si chiamava Pippo e non gli piaceva il suo mestiere. Gli piaceva soltanto suonare il suo trombone. Un bel giorno decise di non fare più il ciabattino. Diventerò suonatore di trombone, disse. Andrò a Brema a suonare per il re. Lungo la strada per Brema, Pippo incontrò l'agricoltore Paperino. Stava seminando. Odio questo lavoro, si lamentava Paperino. Vieni con me, disse Pippo. Vado a Brema a suonare il trombone per il re. Mi piacerebbe, disse Paperino, però non so suonare il trombone. Sai cantare? Gli chiese Pippo. Certamente, rispose Paperino. Ascolta. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua. Canti bene, disse Pippo. Vieni con me. Cammina cammina, arrivarono vicino ad un vecchio carretto pieno di pentole. Vicino stava seduto Topolino. Brontolava. Odio questo carretto! Perché allora non vieni con noi? Gli chiese Pippo. Andiamo a Brema, a cantare e a suonare per il re. Buona idea! Esclamò Topolino. Le mie pentole saranno ottimi tamburi. Li suonerò per il re. Allora andiamo, disse Pippo. I tre musicisti camminarono fino a notte. Erano stanchi e affamati. Vedo una luce laggiù, disse Topolino. Forse è una finestra illuminata. Se trovassimo qualcosa da mangiare. È proprio una casa, esclamò Paperino. È proprio una finestra illuminata, disse Pippo, e si avvicinarono. Pippo, che era il più alto, riuscì a sbirciare dentro. Vide tre uomini dal fare sospetto. Intorno avevano moltissime monete. I tre uomini mangiavano molte cose buone. Ci sono tre uomini là dentro, bisbigliò Pippo ai suoi amici. Sembrano ladri, stanno mangiando tante cose buone. Come vorrei anch'io qualcuna di quelle cose buone, sospirò Paperino. So io che cosa faremo, disse Topolino. Paperino si arrampicò sulle spalle di Pippo. Topolino salì su quelle di Paperino. Topolino gridò. Uno, due, tre! I tre musicanti cominciarono a suonare e a cantare con quanto fiato avevano. E pinghe panghe pum pappa, e pinghe panghe pum pappa. E ad un tratto? Papà Hung! Ok. Caddero nella stanza. I tre ladri, terrorizzati, fuggirono a gambe levate. Non tornarono più. I musicanti non persero tempo e finirono quel pasto meraviglioso. Paperino contò i soldi che i ladri avevano lasciato. Adesso i musicanti erano ricchi. Cosa ci fecero quei soldi? Si compravano un bel vestito, un bel tamburo, un bel trombone, un bel canto. Ok, e poi andarono? Al castello per il re. Ok.